It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli sono entrate le truppe del colonnello Ugute, Cappa e Drago si difendono dai proiettili vaganti. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, stai giù, Drago! Sì, io sto giù, però mi spieghi contro chi diavolo stanno sparando, Si stanno sparando fra di loro. Ma come si stanno sparando fra di loro? Sono mercenari belgi, fanno quello che possono. Allora, aspetta, aspetta. Cosa aspetta? Cosa fai col cellulare? Aspetta, aspetta. A chi telefoni? Ecco qui. Ma cosa fai? Ci sentiranno, spegni quell'affare, Drago. Questo è l'inno nazionale belga. Magari, ascoltando le amate note del loro inno nazionale, smettono di combattere fra di loro, no? Visto? Però, ma chi l'avrebbe detto che dei mercenari fossero sensibili all'inno nazionale? Il patriottismo. Stai giù, Drago, stai giù, vedi? Menagramo, menagramo. Ma che menagramo? Misantropo, se mai. Stai giù, giù, Drago, giù. Io lavoro di notte per stare da solo in silenzio. Lavoro la notte e mentre lavoro io penso che meno gente vedo e meglio sto. Sarò misantropo, lo so, ma al pop del giorno preferisco il sol, perché in a moonlight I trust, in a moonlight I say, please go. It is later than you think. Il rischio di estinzione è elevato. Io me ne sono nascosto nel tabernacolo in chiesa, ma il resto dei miei colleghi senza becco, loro stanno vedendo le peggiori cose della loro vita, E per loro il destino è uno solo, estinzione. Perché qui, tra il colonnello Ungiute e la viaria, ormai è un tiro a segno. Estinzione, parola chiave per i polli, oggi e per gli uomini domani. Io con il concetto di estinzione ho questo amore e odio che non so mica spiegare. Perché nei miei pensieri più privati io sogno un mondo deserto. Ho le fobie sociali mica per niente io. Ed è per quello che qui mi danno la paroxetina. Se no vado in sbattimento pesante e do di matto. Perché a me poi gli altri poli danno fastidio. Lo posso dire? Le piume, le creste, le zampe mi danno fastidio. E i becchi anche. Ma ce ne sono pochi ormai, perché glieli piallano e così non ci fanno male. Io invece il becco ce l'ho. Vabbè. Io intanto ho le mie belle fobie sociali. Però sto meglio da solo, non c'è niente da fare. Mi piace stare da solo. Quindi, se viene l'estinzione, a me non è che dispiace, Basta che non mi estinguo io. Ma scusi una cosa, Drago, sì. Ma tutte le mezzanotti che abbiamo passato qua dentro, a quanti giorni corrispondono di fuori? Quanti giorni? Cioè, i giorni fuori corrispondono. Vuoi sapere da quanto tempo siamo qua dentro? Sì. Secondo i miei calcoli, che arrivano dritti dritti dall'Istituto Gabriele Ferraris di Torino, Gabriele Ferraris. Sì, Gabriele Ferraris. La stampa. Esatto, lui. Il suo istituto mi dice che sono circa 2 mesi. Sono 2 mesi. Calcoli. Così. I calcoli. Calcoli renali, Drago, puoi fare tu, perché non sai niente di matematica. Vabbè, l'Istituto Gabriele Ferraris, che calcoli sono? Ma non so, a me mi hanno detto così, 2 mesi. Chi t'han detto? Quelli del Gabriele Ferraris. Ma che cosa sarà successo a quest'ora fuori di qui? Dopo 2 mesi, a quest'ora mezzanotte. A quest'ora dopo tutte queste mezzanotte? Chi lo sa, chi lo sa. L'unica cosa è provare con la radio, anche se Ti ricordi l'ultima volta? Durante il golpe del colonnello Unghiute trasmetteva soltanto musica classica, quindi c'è poco da... E per forza c'era il golpe, cercare. Adesso il golpe notizie, è finito, quindi... magari si è normalizzato tutto, no? Ah, vediamo. Unghiute governa tutto! Ma dai, ma c'è un comizio dello scimmione, ma cos'è? Macellazione pubblica della nota pop star è stata fissata per il prossimo plenilunio. Michael Jackson ha dichiarato: "Genetically speaking, I am Negro." Le cose si mettono male per il mondo fuori di qui. Sì, direi di sì, ma dov'è il ministro dell'interno? Cosa stanno facendo i nostri politici? Hanno appena finito la campagna elettorale, quindi adesso sì. Forse questa storia di Michael Jackson fa parte dello spoil system. Capisco. Vi come vendetta, Drago. Pollo in sbattimento, tu sei bianchiccio come noi e quindi la vedo male con il nuovo regime del colonnello Unghiute, che è tutto basato sul potere negro, denti d'oro, vita del ghetto, capigliature improbabili, culi shakerati, tutte cose che non ti appartengono. Io come capigliatura ho la cresta. Vabbè. Sì, beh, un po' misera, dai, guardati. Non sembri nemmeno un punk. Beh, intanto il ghetto posso dire di conoscerlo bene, e voi lo sapete, dato che sono stato io a farvi provare il brivido della cloaca massima. Poi i denti d'oro a me non servono, perché io ho il becco d'oro, quindi... è d'oro? Come... È placato. Poi per i culi shakerati in effetti ho qualche mancanza. Qui la materia episcopale scarseggia un po', Lo sappiamo benissimo, Polo, lo sappiamo. È per quello che ululiamo la luna. Vabbè, dai, cappa. Guarda che facevo per dire, non è il Zitto! Ma fallo star zitto. Zitto, cappa! Cappa, attiri le truppe! Io non sono fatto per questa vita. Io sono un uomo di nobile origine, di nobili trascorsi. Lo so, capa, ma i trascorsi sono appunto trascorsi. Il presente è questo qua. Ma cosa? In mezzo alla merda di gallina, senza donne. Con il terrore di finire nel pentolone di Unghiute, no? Sì. C'è da essere contento, secondo te? Adesso è il caso di fare questa voce. Dai, una bella riuscita per tutti e due, Drago. A quasi 40 anni... Ecco dove siamo finiti. Ma la colpa era tua. Ma no. Se tu avessi guardato i cartelli, a quest'ora eravamo sani e salvi all'Istituto Barlumen. L'Istituto Barlumen, che adesso sarà in mano a Guido Bertolotti. Ostaggio, peggio, complice dei mercenari belgi. No, guarda, questa cosa qui non mi va, Dai, Pollastri. Al massimo rischiate l'estinzione, no? Come tutti. No, vabbè. Ma l'uomo non rischia ancora l'estinzione. Questo no, Ma la volete smettere di considerarvi uomini? Voi siete polli a tutti gli effetti. Parla per te. Siete rimasti giganteschi, ma è solo questione di tempo, Fra 7-8 anni sarete grosso modo delle mie dimensioni. Certo, fra 7-8 anni. Vabbè, fra 7-8 anni io spero di aver già dimenticato questa brutta avventura ed essere, non so, a Honolulu. Estinzione! Extinction! Come il disco dei Nausea. Di chi? Dei Nausea. È un gruppo di thrash metal. I Nausea? È un disco del 90, adesso è fuori catalogo da secoli, però potrei anche farvi l'attacco del primo pezzo, Technologic Kill, dei Nausea. Che cosa succederà adesso? L'estinzione è davvero l'unica prospettiva rimasta ai prigionieri della fabbrica di polli? Per saperlo non dovete far altro che ricordarvi di accendere la radio domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo nichilistico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Nausea! Neus! Barlumen!